questo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre, con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. L'estate scorsa ha vinto il Coca-Cola Future Legends e ha firmato con Warner Music. Il suo nuovo singolo si chiama È la notte. Edoardo Brogi. Sono di Firenze, ho iniziato ad approcciarmi alla musica all'incirca all'età di 14 anni, iniziando a suonare la chitarra, e da lì diciamo è partito un po' tutto, è partito la voglia di scrivere, è partita la voglia di cantare, poi ho sentito proprio la necessità, quindi è quello che mi ha portato ad avvicinarmi. Che strada hai scelto per farti sentire al pubblico? Perché sai... Per i ragazzi della tua età c'è la rete, ci sono i talent. Allora, inizialmente avevo proprio il terrore di esibirmi, sia davanti ai miei amici che farmi sentire sui social, è sempre stato una paura. Poi un giorno decisi di buttare giù delle parole, che poi sono diventati la mia prima canzone che ho fatto uscire, che si intitola Polvere, che è un pezzo che ho dedicato ai miei nonni. Un pezzo che ho scritto interamente io e ho prodotto interamente io, ho fatto uscire. Mi ho detto mi metto a nudo, non ne posso più di non farmi sentire da nessuno. Quindi ho deciso di farlo uscire, l'ho fatto uscire su Spotify, iTunes, ovunque. E niente, da lì è un po' partito tutto. Ti ricordi quello che ho detto? Tu sei l'unica, non mi sbaglio. Ma è la notte che ci fotte. Mani vuote, strade rotte. Quanto tempo è passato? Molto particolare, proprio per questo ho voluto far uscire la canzone e pubblicare il video, perché per noi cantanti è importante in questo momento, insomma, riuscire a condividere qualcosa. E sì, la notte è, per me, penso anche per tante altre persone, è un momento quasi magico, cioè un momento dove vengono fuori tutte le emozioni, dove pensi, dove rifletti su quello che hai fatto nella giornata stessa, quello che farai nella giornata successiva, insomma è tutto, la notte è tutto più bello. E sì, è una notte raccontata ovviamente da me, quindi un ragazzo di 23 anni, comunque tante persone anche più grandi di me si sono ritrovate nel testo, quindi è bello insomma, perché un po' tutti condividiamo anche magari segretamente questo fatto della notte, cioè la notte, i pensieri della notte, le riflessioni della notte, quindi è bello, spero che in un momento come questo sia arrivata tanto. Nelle tue foto di Instagram hai quasi sempre la chitarra in braccio, bisogna avere un po' di pazienza e poi potrai incontrare il tuo pubblico e suonare dal vivo. Come stai affrontando questo momento di pazienza? Che desideri hai adesso, Edoardo? Ma sto continuando comunque a cantare, a produrre, a scrivere, e il desiderio più grande ovviamente sarà tornare a fare dei live, quindi a vedere tante persone saltare sotto il palco, abbracciarsi, sorridere, a condividere insieme quelle emozioni lì, perché in questo momento penso a quello, cioè è il primo pensiero che mi viene, è il primo pensiero che ho in mente, perché vedere le persone adesso che stanno a un metro di distanza, che non si possono abbracciare, no, non è per niente bello. Quindi speriamo di tornare a quei momenti lì il prima possibile e di ricondividerli tutti insieme. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Edoardo Brogi. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16.